semaforo sei tu, che cieco nella gente a piedi, taccio dentro gli autobus, due occhi che ti guardano e poi via, come forti raffiche, perdersi nel traffico, di un clapton dopo l'altro chissà, ah, dove sei, come stai? Stasera io ti trovo, lo so.